Ciao, io sono Laura Voltolina e questa Podletter è Il superpotere dei punti deboli. Sei una persona sensibile che cerca di sopravvivere in questo mondo difficile? Le persone sensibili cercano di proteggersi, è comprensibile. Io di certo ci ho provato, e anche tu scommetto. A tratti ha anche funzionato. A tratti, perché il mondo difficile ti lancia addosso strali, a volte pesanti, a volte faticosi, a volte dolorosi. E per quanto tu ti sia protetta o protetto, sarai comunque stata ferita o ferito. Ci sarà stata fatica, ci sarà stata stanchezza. Il fatto è che essere sensibili significa raccogliere inconsapevolmente, quindi proprio a livello inconscio, un sacco di informazioni dal mondo circostante. Che è difficile, dicevamo, ed è anche, e allo stesso tempo, pieno di energia, di vibrazioni sottili, di nutrimento per l'umore e per l'anima. La tua sensibilità è l'unica porta per accedere a quel nutrimento, alla ricarica di energia, nel modo appropriato e nel momento appropriato. Insomma, la tua sensibilità è un autentico superpotere. Basta allenarla. E come si allena la sensibilità? Si allena il sistema nervoso, cioè si inizia dai muscoli e dal movimento per consentire al tuo sistema di organizzare le informazioni in modo organico, come in un respiro più grande, più soddisfacente, più nutriente. Lo strumento più adatto è lo yoga. Ancora meglio se la pratica è stata studiata e costruita apposta, unendo le sapienze antiche con gli studi di neuroscienze e biomeccanica. Si trovano gli allenatori, i coach giusti. I migliori istruttori li ho incontrati nelle mitologie di ogni continente e sono i custodi, i protettori dei mondi naturali. Te li presento nel percorso Yoga e mitologia e l'arte di allenare la sensibilità. Nei racconti delle loro storie e nelle energie che muoveremo, scoprirai che le informazioni che la tua sensibilità raccoglie dal mondo sono preziose alleate della tua connessione con le energie della vita, di tutto ciò che vive. Ti aiuteranno a trasformare il mondo difficile in mondo meraviglioso. Jin, Gandharva, ninfe, sono alcuni degli allenatori della diretta del 19 novembre e ti aiuteranno a trasformare la tua sensibilità in un punto di forza. Non preoccuparti se adesso non sai bene di chi si tratta, lo scopriremo insieme durante il primo appuntamento con Yoga, Mitologia e l'arte di allenare la sensibilità. Durante ogni webinar incontrerai custodi e protettori collegati a energie diverse. Così al termine del percorso avrai un'abbondanza di allenatori mitologici. Iniziamo martedì prossimo, il 19 novembre, con le 4 dirette, ma riceverai anche la registrazione per allenare la sensibilità divertendoti, con l'incanto delle storie, con la magia del movimento e del corpo. I percorsi Yoga e Mitologia e l'Arte di sono a novembre, a febbraio e aprile, sempre con dirette martedì sera e registrazioni. Vuoi farli tutti? In brochure c'è uno sconto pazzesco. Su richiesta sarà rilasciato l'attestato di partecipazione a chi frequenta tutte le dirette. Scrivimi per trasformare la tua sensibilità nella tua più preziosa alleata. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di Bell Hooks, dal suo All About Love. Esiste un principio animato in noi, una forza vitale, alcuni di noi la chiamano anima, che, nutrita, esalta la nostra capacità di realizzare noi stessi e di agire in accordanza con il mondo intorno a noi. Un grande, grandissimo abbraccio, Laura.